La Anthony Perkins Productions presenta Harry Burr, 45 minuti ai margini dell'arte. Non farai mai un cinema nuovo se prima non inventi una vita nuova. Io non potevo tollerare, diciamo, che tutto fosse dominato da una sintassi che era, secondo me, molto rozza, la sintassi dell'obiettivo della pellicola. Chi non ha visto i paesaggi interni del proprio corpo, chi non ha parlato con le proprie cellule, chi non ha sentito che il proprio corpo può vibrare insieme alle vibrazioni di tutto l'universo. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio ZAM da Luca e dalla Anthony Perkins Production per questa nuova puntata di Harry Burr, una puntata un po' speciale. Avete appena sentito la voce del personaggio di cui stasera si parla, è la voce di Alberto Grifi. Questo vuol dire per me, per la prima volta, di parlare di una persona che ho conosciuto personalmente e ho frequentato lungo il corso degli anni 90. Alberto Grifi è stato il più importante regista underground italiano, anzi è stato il cinema underground italiano, quello più sperimentale, quello più visionario, come avete capito anche dalle poche parole che Alberto dice. E Alberto è anche uno dei guru della Anthony Perkins Productions, l'unico che l'ha influenzata direttamente e che è entrato direttamente anche nelle opere della Anthony Perkins, perché io, uno dei soci allora della Anthony Perkins nel 96, realizzammo un documentario intervista durante una notte che passammo con altri personaggi insieme ad Alberto a Livorno. La Anthony Perkins Productions è, in caso di dirlo per la prima volta, qui è stato una crew, è stato un'associazione culturale, adesso uno stato della mente. I suoi riferimenti massimi sono, oltre Alberto, Cesare Zavattini, il grande sceneggiatore che io ho molto studiato, Nanjun Paik, il padre della videoarte, perché tutto quello che abbiamo prodotto, sia quando eravamo in 4, poi 5, sia quando siamo rimasti io e Falco Ranuli, che è il mio anagramma, è stato fatto col video. Un altro è Bill Viola, che è il genio della video arte, anche ambientata nei luoghi, e un pochino ci siamo occupati anche di questo, sempre sotto l'ottica invece dell'ultima ispirazione, che è il gruppo TNT di Magnus e Bunker. Perché il gruppo TNT? Perché lo spirito con cui si fanno le cose, sempre senza un soldo, sempre in maniera sgarrupata e improvvisata, è da sempre quello del gruppo TNT, che non si sa mai come riesce a fare le cose. E anche se mi vedeste registrare Harry Burr, capireste che lo spirito è sempre quello. Non so appunto se scusate, d'altra parte ormai si è presa a pezzo questa cosa, si può pensare. Questa ragazza la si aiuta, è chiuso. Ma sì, la si aiuta, ma non la si aiuta così, Dio can. Io ho visto amici miei, Dio can, tentare il suicidio perché erano innamorati. Dio porco, poi le donne incinte, Dio can, coparse. Non è tanto. E dopo anche quando non erano più incinta, perché c'era il padre, la madre, la società, Dio can, porco Dio di merda, perché uno sapeva suonare la chitarra che non la faceva suonare. Perché uno fin da quando è piccolo è stato bastonato. E così e fino a 20 anni poi è stato allevato, e poi dopo Dio can come le bestie, pum, pronto per il macello. E quello si è ribellato, ha detto no, io non mi faccio smerdare così, perché si è accorto che diventava un puledro troppo grosso, troppo bello. Capito? Ma lei d'altra parte si è ribellata, lei non muore un tesoro, Dio can, soffre. No, perché rovinerà l'uomo che le sta vicino. L'uomo che gli sta vicino, lui, lei la lo rovinerà, perché lo farà soffrire, perché lei sa di essere bella, Dio can, Sylvie Vartan e Johnny Holiday, Dio porco. Vedono gli occhi tuoi, larghe foreste che non avrei visto mai, e non vedevo te, ora che tu sei qui. E Dio can, ti bocce che soffrono. Fino da 12-13 anni vengono pestati dai padri, dalle madri, e le madri, Dio can, costrette a fare le puttane perché il marito, merda, Dio can, le manda a fare le puttane perché si innamora di quella che c'ha la bocca più bella, col bleto più bello, così che arriva qua con gli occhietti che tirano più in su, Dio can, merda. E allora che è giusto questa cosa? E allora questi ragazzi crescono, Dio can, si innamorano di una ragazza semplice, umile, ribelle. No, tieni, bella. Che te la racconto, guarda. Ecco, sì, do it, fallo. I know this book. Io ho preso questo libro, non l'ho mai letto. L'ho preso perché c'era un esempio tipico, Olga Germi, marito Germi, che prima usa la violenza e poi chiede scusa. Dio nazista. E dopo usa il linguaggio di Okan. E questa donna che si è ribellata dopo tanti anni di night e di cose così, aggiungere una vita, si è messa con un ragazzo hippie che si chiama Maurizio, che è forse uno dei miei più grandi amici, e con questa persona lui dice io ti amo, e vivono veramente la vita insieme con i loro figli, ma il marito l'ha ricata in tutte le maniere, gli vuole togliere i figli, gli rovina la vita in tutte le maniere a questa donna bellissima, bellissima. Olga! Olga! Che sei innamorato di lei? No. E allora? E allora io voglio che questo sia reso pubblico, perché lei non può fare niente contro il marito, che è un regista. Che? È un regista. Un regista cinematografico. Sì, lei se ne frega, però compra tutto, perché dalla servitù in poi, perché è innamorato folle della moglie, perché è uno che ama queste cose. E io non voglio fare la spia tesana, ma se figurati, io ti capisco, questa cosa, se quel certo, fumetto, vedi, crack. Certo, non ti capisco, sì. Dai, via. Sei nato in una città come Roma, col cazzo. E Germi d'accordo, va bene, va benissimo, però siamo in pochi, molti pochi. Dustin Hoffman, il cane di paglia, come il castagno sono buone con Gianni Morandi. Che cazzo di problemi vogliono dire? A me lo dici. Però ce ne sono, come dicono, c'hanno il potere in mano. E rovinano le più belle amicizie, le persone che si ricredono, la gente che veramente sa andare avanti perché è bella, perché è pulita dentro, non perché c'hai le cose, capito? Che lavori ora? No, io voglio tagliare tutte queste scene perché non mi vanno. Gioco col power. È già Cocker Power che parte con l'aereo, mi sta sul cazzo, perché è giusto che i giovani stiano fra di loro, ma non con Joe Cocker Power scritto sull'aereo, anche se l'aereo in America forse al giorno d'oggi vuol dire la due cavalli in Italia, onesta, figurati. Intorno agli anni 65-67 mi ero dedicato a un tipo particolare di ricerca sul linguaggio cinematografico, che era l'approfondimento di quel settore che a Cinecittà si chiama effetti ottici speciali, un modo particolare di truccare gli obiettivi delle macchine da presa. Queste tecniche erano già state care al cinema dei surrealisti, per esempio, perché promettevano la fabbricazione di un'immagine cinematografica che fosse vicina all'esperienza più ricca e più profonda della pittura, delle arti figurative in generale. Era naturale che il cinema underground, il cinema sotterraneo, facesse tesoro di queste esperienze. Ecco, questo qua è uno specchio fatto proprio in casa, anche poi con l'aiuto degli artigiani di Cinecittà. Quest'altro è un fisheye casalingo. Ecco, si vede anche, ricavato proprio da una lente di occhiali, quindi era un cinema con mezzi poverissimi. Poi che dire, non so, questo qua è una cosa anche tipica che si usa, l'effetto acqua, una, quando si fa l'occhio, la soggettiva del pesce o di quello che affoga, no? Oppure una lente, un cristallo di un lampadario, è un'altra cosa che chi usa a fare fotografie con mezzi di fortuna conosce bene. Questo qui è un altro. Ecco, bisogna dire che quando proiettavamo i nostri film nelle sale cinematografiche, come il Film Studio per esempio, cioè in quei cinema, in quegli studi che a quell'epoca erano praticamente sconosciuti, tra gli spettatori più assidui c'erano i registi del cinema di cassetta. Questo non è successo solo in Italia, è successo soprattutto negli Stati Uniti, tant'è vero che Hollywood produsse un nuovo filone, cominciarono a uscire dei film sul mercato, tutta una serie dove c'erano questi effetti speciali. Per esempio, si vedeva uno che sogna e nel sogno tutto è deformato dal fisheye, dall'occhio di pesce. Uno racconta che è ubriaco, ha preso delle droghe e il racconto viene descritto alterando i colori, mettendo dei prismi o sfocando l'immagine per suggerire l'idea che uno è ubriaco o che appunto essendo drogato l'occhio non vede così come vede secondo la norma visiva. Secondo me però questo è un modo estetizzante di usare queste tecniche, perché sono usate come contorno. O meglio dire, come si usa il peperoncino per insaporire quella sbobba in sapore di un cinema che non cambiava nella sostanza. Perché ho detto questo? Perché il linguaggio del cinema sperimentale si proponeva di rifondare un modo di guardare e quindi rifondarne anche i significati. Creare la sintassi di un occhio, di uno sguardo più penetrante, anche se a livello simbolico. Tra questi film brevi, che erano esperimenti, va ricordato Transfer per camera verso virulenze, che non era un semplice documentario, ma proprio un transfer sul teatro di Braibanti. Aldo Braibanti, che è un filosofo, andrebbe ricordato forse per il processo che lo Stato, attraverso la magistratura, gli scatenò contro. Braibanti era già stato torturato dalle bande Koch e Carità durante la Resistenza, e come se questo non bastasse, quasi a dimostrare che la guerra non è mai finita, fu perseguitato, incarcerato, messo alla gogna come una striga, durante un processo incredibile, per un reato la cui configurazione faceva indovinare dietro le quinte assai più evidentemente le trame dei suoi accusatori piuttosto che una qualsiasi possibile colpevolezza dell'imputato. Era, ormai è diventato un modo di dire, un atto di plagio, grazie a alcuni uomini che lottarono duramente contro la sentenza e che condannò Braibanti a 9 anni di carcere, questo castello di accuse medievali cadde, questa montatura fu smascherata e il filosofo fu scarcerato dopo 2 anni di prigionia. Il film fu girato poco prima che Braibanti fosse messo in carcere. Nel descrivere l'azione teatrale, le lenti, i prismi, gli specchi aggiunti alla macchina da presa erano usati come dei sensi di percezione nuovi, quasi che l'operatore diventasse lui stesso pesce, insetto, e riproponesse, ricreasse la storia dell'occhio durante l'evoluzione della nostra specie. La storia dell'occhio primordiale è affascinante. Pare che la retina, cioè il fondo dell'occhio, quello che è sensibile alla luce, sia l'estroflessione della corteccia cerebrale, cioè di quella corteccia che aveva originariamente la funzione dell'olfatto. Pare che la retina questa corteccia si sia estroflessa attraverso quello che poi è diventato il chiasma ottico e abbia ricominciato a riconoscere, a distinguere la luce dall'ombra. I primi animali che erano rintanati nelle grotte riuscivano così a distinguere se c'era il nemico che tappava il buco della tana oppure se c'era via libera. Ma questa retina primordiale, questo pezzo di corteccia cerebrale sensibile alla luce, aveva bisogno di essere pulito ripetutamente, e allora si è formata prima una secrezione, poi una vera e propria membrana di protezione, che è in sostanza un archetipo della lacrima. Ecco, questa secrezione è questa membrana di protezione, ha cominciato via via a fare da lente e mettere a fuoco le immagini, come tutte le bolle d'acqua, ed è diventata l'occhio. Ecco, avete ascoltato uno spezzone sonoro del film Anna, opera di Alberto Griffi e Massimo Sarchielli, che è la voce che sentite in basso, dialogare con uno dei protagonisti del film, Stefano, che è una della corte di personaggi che raccatta dalla strada questa giovane de Racine, Anna, che viveva praticamente per la strada in piazza Navona negli anni 70. Il film poi racconta un po' la sua storia, diciamo così, in diretta, con anche dei colpi di scena che non vi racconterò se non l'avete visto, ma non è uno di quei film che si spoilerano. È un'esperienza, insomma, che va vissuta, non finito, come sono spesso i film non finiti, i film di Alberto. Poi avete ascoltato invece Alberto stesso che parlava di Transfert in camera verso Virulenti e nominava quest'altro personaggio fondamentale della cultura sotterranea italiana, Aldo Braibante. Ne raccontava in breve la storia e illustrava poi anche una sua teoria sulla nascita dell'occhio e quindi della visione. E poi avete sentito Sonata numero 5 di John Cage per pianoforte Preparate. Perché l'avete sentita? Perché John Cage aveva apprezzato moltissimo La verifica incerta, il film collage, il nonno di Blob, il nonno del found footage di Alberto Griffi e Gianfranco Barrucchiello, pittore livornese, e poi aveva collaborato successivamente con Alberto. Tante entrate, chissà chi pagherà, ma il parco non ha uscite, il prezzo non si sa. Hai chiesto una risposta, il gruppo te la dà, sta chiusa in un panino di bassa qualità. La giunta ci ha concesso il prato e l'acqua no, la giunta è di sinistra, lo sporco non lo so. E poi c'è stata tolta l'elettricità, perché si viva al buio la nostra estraneità. E siamo tutti insieme ma ognuno sta per sé, la ricomposizione si sogna ma non c'è, ognuno nel suo sacco nudo tra il letame, solo come un pulcino bagnato come un cane. Il palco è come un ponte che non unisce niente, ci passano i cantanti fischiati dalla gente, qualcuno un po' più furbo fa battere le mani o tira fuori il coro dei napoletani. E vuoi vedere in faccia il proletariato giovanile, perché è lui l'invitato che doveva venire. Ma senti già nell'aria una strana vibrazione che nasce dai feticci vestiti da persone. È tutta una gran merda la colpa di chi è, lo Stato, il riformismo, i gruppi, non so che. La merce sta abbracciando la festa popolare ed entra dentro i corpi tra il piscio e le bandiere. Si sta sfasciando tutto, persino la teoria, perché il nuovo soggetto pare che non ci sia. Essere espropriazione significa qualcosa, è che la nostra vita è diventata cosa. Il desiderio grida, ecco la polizia, fumo di candelotti non si sa dove sia, ma c'è sull'altro prato qualcuno che massaggia, sì, magari con lo yoga passa un po' di sgaggia. Non si capisce nulla, si ha voglia di fuggire. La festa, quale festa, no, non ci si può più stare. Uno con il cazzo fuori sta ancora lì a cercare, vuole portarsi in tenda la donna da scopare. Qualcuno c'è riuscito a vincere la notte, ad aspettare l'alba più avanti delle botte. Qualcuno c'è riuscito a entrare negli sguardi, a leggersi negli occhi che non è troppo tardi. Si celebra sul palco l'ultima pantomima, si bruciano le buste, vigliacca l'eroina, ma c'è chi il suo nemico lo cerca per il prato e con lo spacciatore ti spranga lo spacciato. È l'ultimo spettacolo, non solo della festa, la mia generazione che svuota la sua testa e vuole vederne i pezzi e non li vuole vedere, vuol leggersi nel corpo ma anche sul giornale. Le 5 di mattina suoniamo tutti insieme, si balla come matti, ci sembra di star bene. Le donne sono fuggite, c'è solo una modella che balla all'africana l'ultima tarantella. Ed anche qui nel rito c'è la contraddizione, nella felicità la nuova repressione. Il parco è ormai nascosto, è tutta una lattina, abbiamo fatto il punto e niente è come prima. Thank you. filmi, anche delle cose autentiche, reali, anche in presa diretta nel senso che fai del cinema verità, si sa bene che tu sei portato a sceneggiare lì per lì, a inquadrare, cioè in sostanza a contenere nei modi consentiti dall'economia anche ciò che di spontaneo sta succedendo. Quindi riporti, fai un processo di mercificazione sulla gente che filma. Il problema grossissimo che noi abbiamo avuto qui e poi è stato riuscire a filmare alcune cose, cioè intanto alcune persone che si rifiutano categoricamente di parlare. Beh, noi mamma Rai, per cui voglio dire subito individuati, li vaffanculo, a meno che tu non ti fermi, stai lì, parli, passi due ore, li fai insieme quattro spinelli, eccetera, poi alla fine magari si convincono e parlano. Se no, in linea di massima è proprio il vaffanculo. Voi su questo piano come vi siete trovati? Beh, senti, dipende anche da come... Noi abbiamo... è brutto dire una strategia, ma l'abbiamo usata verso quelle persone che non ci conoscevano. Cioè, ci siamo presentati prima noi... Abbiamo formato dei gruppi, bah, per così dire, d'animazione, e che catalizzavano attorno a loro, attraverso una discussione già in atto, una certa serie di problemi che qua stanno venendo a galla in un modo estremamente violento, la spaccatura appunto fra un'amministrazione gerarchica che è quella del festival, è una base che invece intende già superare lo stato di fatto del festival, perché il festival è un ghetto. Che sei caduto per scale? Sì, per scale, mi avete fatto cascare voi, mi avete fatto cascare. Voglio parlare col direttore e voglio il dottore, dai. Che vuoi? Come che vuoi? Perché devi parlare con me e con il direttore? Ah, perché? Non sai niente tu, eh? Non sai niente. No, guarda, bello, l'ho capito. Te per me sta zitto, sa? Ma vuoi la sigaretta? Eh? Ma vuoi la sigaretta? No, non voglio niente, non voglio, capito? Come non vuoi? No, non voglio niente, non voglio, perché da gente come te non voglio proprio niente, c'è da niente alla danna. Stai dall'altra parte, stai, capito? C'è i chiavi in mancia. Ah, perché sono... Sì. Ma come sono dall'altra parte? Sì, e che non lo vedi? Che stai qua dentro? Guardi che ti voglio aiutare, non so... Ma chi? Sì, a chi aiuto? Ti voglio aiutare, guarda qua la divisa. E botte, cioè, ci sono sempre state e sempre ci saranno. Fino sì, quando bravo. Ci saranno. Bravo. Non si cambia lentamente. Eh sì, cioè, per certo non si cambia a portare quella roba addosso che sei tu. Come no? No, si cambiano proprio, fino a che c'è sta gente che c'ha qua la divisa là, come la tua, è inutile che cerchi di tenere le mani pulite, perché se a me mi hanno nominato le mani sporche, ce l'hai pure tua, capito? Perché c'hai qua la divisa, c'hai. Guarda, è bello, hai che capito? Ce l'ho. C'hai qua la divisa, c'hai. Perché io... È quello che ti ha fregato. Perché a me la mattina non veniva nessuno a darmi la magna, capito? Io ma guarda... Io il lavoro mi andavo a cercare, capito? Ah, bravo. Se stai qua, andavo a fare manifestazioni... È regolare che ci vado, perché io sto qua, proprio per non fare la vita che fai tu, capito? Ma che vita fai? Ma che vita fai? Ma come che vita faccio? Ma riesco a fare questa vita qua con quello che fai, capito? Ognuno al suo posto deve stare. Te, tenuta e io secondo mio, tanto, fino a quando le cose stanno così, fino a quando ci sarà gente come te sulla faccia della terra, capito? E cose saranno sempre così e andranno. E cose cambiano lentamente, capito? Quando siamo noi al governo, quando noi siamo al governo, le cose cambieranno, le carceri ci saranno meglio, capito? Eppure io c'ho tante chilo sulla testa, come c'è la terra adesso, eppure. Per fare, per guadagnare, per poter mangiare, mi sono dovuto mettere questa divisa qua, capito? E mo appena noi cominceremo... A Pesaro eravamo 13.000 abitanti, era allora. E siamo rimasti in 3.000, siamo rimasti, capito? Perché la gente, piuttosto che mettete qua la divisa lì, andate a finire o qua dentro come sto io, oppure andate all'estero, andate, capito? Hanno fatto emigranno, ho fatto. Ma non si sono messi dall'altra parte che chiavi in mano a chiudere la gente dentro quattro mura. Ha capito? Cioè, e le carceri non esistono. Come? Io non mi sono carcerato. Io? Chi? Tu? Io le carcerato peggio di me, capito? No, perché io non sono carcerato, capito? No, io le carcerato peggio di me, perché io sono stato qui, è proprio che non accettavo, ma anche al carcere che mi sta di fuori, hai capito? E tu dicevi che eri un compagno, tu? Certo, io sono un compagno, capito? Bravo, sono un compagno. Sento, per te e per la mente tua, che vuoi collaborare, altro che legge speciale e carcere speciale, se no vuoi andare a finire, capito? E avete sentito in successione una canzone di Gianfranco Manfredi, un tranquillo festival pop di paura, e poi la voce di Alberto Grifi, appunto registrata al Parco Lambro mentre parlava con una troupe della Rai. Alberto era presente con le sue gruppi di videoteppisti per realizzare il mostruoso progetto del documentario sul, appunto, il festival del Parco Lambro, famosissimo per l'immagine dell'assalto al camion di polli surgelati, un progetto che ha avuto varie fasi di montaggio. Io la prima volta che l'ho visto è quando Alberto venne a presentarne una versione corta di 2 ore a Livorno insieme a altre cose, quando la Anthony Perkins Productions lo aveva invitato per la prima volta, ma poi ce ne sono state varie presentazioni, tra cui una bellissima a Filmmaker grazie al grande Luca Mosso, che era amico anche lui di Alberto, in cui vennero fatte diverse postazioni in cui si vedeva gran parte del girato di Alberto. E in ultimo avete sentito il finale di Michele alla ricerca della felicità, che invece è un corto carcerario di Alberto. La reazione della gente che vede ora queste cose, anche considerando, non so se ci ha fatto caso, ma mi pare abbastanza evidente il fatto che a vedere le cose che abbiamo fatto vedere c'era un'età media veramente bassina. Beh, erano quasi tutti, insomma, under 30, più o meno. Come, cioè, ti sei guardato in giro, hai visto cosa faceva la gente, e se hai visto, cosa ne pensi, le reazioni che ha avuto la gente di fronte a queste cose che non avevano mai visto? Boh, il fatto che ci sia della gente giovane mi piace molto, perché tutti quelli che, come si dicevano, fatto il 68, gli anni 70, eccetera, non dicono i giovani sono perduti, cazzi da rovinati, cioè, invece non è vero un cazzo, cioè che c'è molta più curiosità, voglia di sapere, ma tante anche. E lo considero un colpo di fortuna il fatto che io, i miei unici spettatori ormai hanno meno di 30 anni, questo mi piace moltissimo. Invece vedevo tutti quei babbioni che si affacciavano, tutti pieni di visioni, di pompe da palombero, tute, modellini di barche, navi, fotografie di Venezia, non so che altro c'è, che arrivavano, sbarravano gli occhi, poi generalmente la fidanzata guardava il fidanzato aspettando un gesto di disapprovazione e andavano via, no? Cioè, le famiglie. No, sai che insomma, quando hanno rapito Moro, lì è stata una zona di una data di demarcazione in Italia che è stata importantissima, perché prima c'era come due culture in Italia, c'era l'Italia che era spaccata verticalmente in due, da una parte i poveri, dall'altra quelli che facevano finta di essere ricchi, perché poi queste ricchezze non c'erano, cioè c'era un malessere totale. Però diciamo che c'era un sacco di gente che era stufa di vedere giornalisti gambizzati e anche stufa del telegiornale, perché in fondo il telegiornale pompava moltissimo su queste cose, raccontavano anche molte palle, perché insomma compagni che scrivevano un articolo erano diventati terroristi. Tutti, cioè chiunque commetteva un piccolo reato ormai era un terrorista. Questa è stata una specie di generazione, di generalizzazione per bollare tutte le giovani generazioni, invece per cui quasi chiunque faceva. Sì. Allora, è successo che poi da un giorno all'altro, c'era quel filmetto che abbiamo fatto col Blumi, che è Dini e la Normalina, che quando l'abbiamo fatto era ancora, non so, scritto da Blumi 15 giorni prima che rapissero Moro, e nel giro di un mesetto e mezzo quello che era un film di fantapolitica, perché sembrava veramente incredibile, noi ci scherzavamo su all'ipotesi del fatto che ci fosse la normalina, cioè che ci fossero dei metodi di normalizzazione massicci, diciamo. E invece poi è successo così, cioè quel film lì che era di fantapolitica, almeno noi l'avevamo fatto così, è diventato una specie di film verista, diciamo, quasi, no? Perché i processi di normalizzazione pompati da tutti i giornalisti, che tra cui va ricordato, non so, Leo Valiani, gente che veniva dalla Resistenza, ma che vedevano proprio con terrore la propria vecchiaia rispetto alle generazioni giovani come un pericolo proprio, come nuovi bisogni che nascevano li vedevano come un pericolo. Va detto pure, ha ricordato, che mentre praticamente diciamo la responsabilità rispetto all'affare Moro era rivendicato dalle BR, quindi pubblicamente noto, il Partito Comunista denunciava i ragazzini d'autonomia perché erano quelli ritenuti realmente pericolosi, era realmente il dissenso. Le BR hanno sempre sostenuto che l'unico soggetto politico che dovesse ereditare la legittimità, diciamo, del riscatto rivoluzionario fosse l'operaio direttamente produttivo, cioè praticamente un oggetto umano sfruttabile ancora dalle vecchie forme di capitalismo, mentre invece l'autonomia stava radunando tutto il dissenso, tutta la differenza, se vuoi, tutta i bisogni nuovi che venivano generati nelle piazze e in una vita costretta da marginalità nei ghetti dei quartieri periferici, eccetera. Risolto non nel senso che si annuncia la rivoluzione dell'identità di teatro con la vita, ma che l'identità si cerca extra teatro, con l'uscita dal teatro, e che il teatro si abbassa o si innalza, se volete, secondo i punti di vista, alla sua funzione di metafora come strumento di ricerca. Il personaggio non è il fine del montaggio, ma è il mezzo del montaggio. Questo concetto rivoluziona fino in fondo i nostri rapporti col teatro e col pubblico. Comprendere questo significa comprendere anche il perché delle prove che facciamo, comprendere quell'apparente inutilità o vacuità di certe prove, comprendere le finalità di un montaggio che arriva al testo solo alla fine. È un articolo di Braibanti del 64 che si chiama Formiche, uomini e macchine. Senti. La strada del cielo profondo s'apre ormai irreversibilmente di fronte a noi, per espandere la vita e non per uccidere, per cercare nuovi compagni e non nemici da combattere, oltre il fanatismo, l'intolleranza, la sopraffazione. Nessun automa che cerchi di riprodurre il mostro superumano ci porterà su altri mondi, ma una nave il più possibile umana, unita a noi in una simbiosi che ci ricordi l'intima alleanza del cavaliere col suo cavallo, ma ancora di più, dell'uomo con la terra del suo pianeta, con gli esseri che lo coabitano, in nome anche dei quali noi tendiamo oggi negli spazi la nostra mano di artefici. Il più importante segreto cibernetico, quello più vicino al limite, là dove l'automa torna forza psichica, è chiuso in parte anche nel cervello della formica. Forse l'uomo può scoprire in lei questa parte e svilupparla nel suo modo. Il delitto viene sempre dopo. Dopo aver il violatore ore della il violinista ella si avvolava. Che con questa simbolistica ossessione ma anche che ruolo della paura. È possibile che con questa simbolistica si esprima non solamente il fatto che l'uomo come individuo è prima della nascita un endoparassita acquatico della madre, ma anche che il ruolo della terra e del mare nella evoluzione della specie era realmente quello di precursori della materia. Ti hanno scelto per me, ma che non tentare, parliamo su questo scrivo. Lì pesce. Attore come spettatore, spettatore come quinta. Il è pesce. Attore come quinta. Di se stesso. Pesce mangiato. I cavalli al mare sono il simbolo. Ce n'è per tutti. Della nave simbiotica. È stato che porterà gli uomini verso le stelle. Bene, avete sentito uno spezzone dell'intervista fatta da me, da Alessandro Barbadoro, ad Alberto Grifi, il 3 agosto del 1994. Quindi, ahimè, 31 anni fa, è quella che avete sentito all'inizio la mia voce, appunto, di 31 anni fa, quando era ancora abbastanza giovincello, e dopo avete sentito la risposta di Alberto, che come farà per tutta l'intervista, parte dai miei miseri spunti per andare verso vette che solo lui riusciva a vedere. L'intervista la trovate su YouTube al titolo che ho appena nominato, se vi volete divertire a sentire quante altre ne ha dette Alberto. Subito dopo avete sentito un pezzettino della già nominata Transfer per camera verso Virulenzia, mentre avrete riconosciuto in sottofondo l'Internazionale nella versione degli Area International Popular Group, dalla versione fatta al concerto per Demetrio del 1979 all'Arena di Milano. Io con questa vi saluterei e vi lascerei allo sfumare di questo pezzo che non manderò tutto, naturalmente scusandomi per aver fatto solo una piccola incursione nello sconfinato archivio che ci ha lasciato Alberto Grifi, che potete scoprire un po' su YouTube, un po' su Rai Play, anche solo relativamente ai titoli che ho detto, ma ce ne sono molti altri. Ho parlato pochissimo, purtroppo ero nominato spezzoni della Verifica Incerta, perché ecco, veramente la Verifica Incerta, il nonno di tutti i found footage e blob, se non lo vedete, essendo un assemblaggio di pellicole, non ne capite proprio il senso. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo mercoledì. Buonanotte. Arebur, 45 minuti ai margini dell'arte.